Questa cosa era successa, stava succedendo e quindi era inutile evitarla o non vederla. Allora ho fatto il contrario. Ho deciso di cercare un modo per mettermela bene in evidenza. Un modo per potercela avere davanti in tutta la sua forma e le sue dimensioni. E il modo più semplice che mi è venuto in mente è stato, ancora una volta, il diario. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16:07 minuti, Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Viviamo nell'attesa di avere risposte. Di sapere se ci sarà il sole o se pioverà. Se il colloquio è andato bene ci assumeranno. Se lei starà con noi oppure no. Aspettiamo delle conferme e delle smentite. Dei sì e dei no. Aspettiamo che passi, che torni, che se ne vada. Che qualcuno faccia qualcosa. Che dica qualcosa. Aspettiamo che smetta di nevicare per andare fuori. Che cominci a nevicare per andare a sciare. Aspettiamo che il figlio nasca, che qualcosa inizi, che la cena sia pronta, che il film cominci, che la medicina faccia effetto, che il venerdì arrivi, il più presto possibile. Aspettiamo il verde, il tram, aspettiamo un lavoro o un cambiamento, che quel giorno arrivi presto o non arrivi mai. Ci aspettiamo cose dagli altri che si aspettano cose da noi. Rimaniamo in attesa di capire, di chiarirci le idee o che le idee si chiariscano da sé. Aspettiamo che tutto finisca, che qualcosa cambi, che arrivi la felicità o almeno un po' di serenità. La puntata di oggi è dedicata a tutti quelli che stanno aspettando. E a tutti quelli che stanno aspettando do un numero 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Ho letto prima su Facebook che qualcuno ha scritto tutti stiamo aspettando qualcosa, che un po' è una generalizzazione e quindi è una boiata e un po' no. Però oggi io voglio sentire proprio le persone che sentono quell'ansia d'attesa, perché stanno aspettando qualcosa, stanno aspettando delle risposte, stanno aspettando la risposta di un colloquio che hanno fatto, di un test che hanno sostenuto o di un esame, stanno aspettando delle persone magari, tipo un figlio che è partito lontano per studiare e che magari sta tornando, un fidanzato che sta lavorando lontano e che magari a breve tornerà, magari stanno aspettando un figlio che finalmente sti 9 mesi magari stanno pure finendo. 800 24 0024, 349 238 6666. Tutti quelli che stanno aspettando un giorno particolare, che stanno aspettando di partire ad esempio perché non ce la fanno più e vogliono andare via, stanno aspettando di trasferirsi, di cambiare casa, di cambiare città, di cambiare paese, stanno aspettando di cambiare lavoro magari perché quello lì veramente basta. Stanno aspettando un pacco perché hanno fatto un ordine, semplicemente. Stanno aspettando una lettera, stanno aspettando una cartolina, un libro che hanno comprato, un DVD che hanno comprato. 800 24 0024, 349 238 6666. Io sto aspettando anch'io, adesso vi racconterò esattamente che cosa sto aspettando. Vorrei sentire però persone che hanno questa ansia d'attesa come me. Vi faccio un esempio. Giorgio, ad esempio. Aspetto che finisca di nevicare. Nevica sempre quando devo andare a prendere qualcuno a Malpensa. Sandra, io sto aspettando che mi arrivi il coraggio. Aurora, sto aspettando l'esame di Krav Maga, che mi fa paura ed è solo il primo livello. Allora, Aurora, non so se ascolti in diretta. Se qualcuno che ascolta in diretta sa che cos'è il Krav Maga, 349-238-6666. Io credo che sia un'arte marziale o una cosa che ha a che fare col combattimento. Però se qualcuno sa che cos'è, 349-238-6666. Magari la stessa Aurora. Marcello, dall'ospedale di San Carlo, dice: aspetto i risultati degli esami di mia mamma. Io cerco di nascondere l'ansia, invece nel suo viso non traspare nessun tipo di preoccupazione. Ride e racconta barzellette. Reparto oncologia, aspetto con ansia e sorrido ai racconti di mia mamma. 800 24 0024, 349 238 6666. Ancora Elisabetta: ieri sera ho smesso di aspettare. Da ieri sera so cosa mi aspetterà nei prossimi 8 mesi. Non ne sono contenta, ma sento che non ho più il peso dell'attesa. Incasso il colpo, reimposto le coordinate e avanti ancora. Luca aspetta semplicemente il weekend perché evidentemente non ce la fa più. E poi c'è un messaggio di Olivia. Olivia dice: io aspetto che chiamino mio figlio per un'operazione che gli cambierà la vita. Ogni mattina lo guardo uscire per andare a scuola. Respiro, chiudo gli occhi e gli dico con il pensiero: non mollare, non mollare, non mollare. Esco e vado al lavoro. Ogni giorno aspetto la telefonata che mi farà iniziare un'altra attesa. Olivia, non so che cosa sia, però è come se stessimo aspettando con te. 800240024 349-238-6666. La vostra attesa, questa invece è la mia attesa. Oggi è venerdì, sono passati 3 giorni dalla notte che ho passato con lei. Dopo essermi svegliato in casa sua martedì mattina, l'ho salutata e sono venuto in radio. E poi ho aspettato. Facendo finta di non aspettare, ovviamente, perché se ti accorgi che stai aspettando, è finita. Non potevo concedermi la possibilità di capire che ero in attesa della sua telefonata. Ho tenuto duro qualche ora, giusto il tempo di venire in radio, fare il programma, e poi c'ero già di nuovo dentro, mani e piedi. Mi sento un pirla, però questa cosa capita a tutti, giusto? Ed è una cosa bella, giusto? Cioè, è la cosa che tutti anelano, aspettano, quindi dovrei essere felice, giusto? E allora perché invece sto così? Comunque, martedì sera io non ho resistito e alla fine le ho mandato un messaggio. Ci ho impiegato 1 ora a capire che cosa scrivere e 2 ore per decidere se mandarglielo oppure no. E alla fine sono riuscito a scrivere questo elaboratissimo SMS che faceva così. Ciao Natalie, come stai? Mi piacerebbe rivederti. Che fai in questi giorni? Matteo. Un genio, eh? Così elementare che è quasi ridicolo. L'ho inviato e poi ho fatto finta di non pensarci più. Ho fatto altro. E mi è pure stato utile perché pur di fare qualcosa ho lavato i piatti, ho passato l'aspirapolvere, ho fatto una lavatrice, ho pulito il bagno, i vetri, ho sbattuto il tappeto, ho cambiato le lenzuola. Sembravano le pulizie di primavera a novembre. E il tutto ovviamente a 1 di notte. Fino a che, mentre stendevo i panni, ho sentito quel suono celestiale. Ho preso in mano il cellulare come se niente fosse. Hai ricevuto un messaggio. Ciao Matteo, sto andando via qualche giorno. Ci sentiamo settimana prossima. Natalie. Ecco, da allora ho smesso di fare finta e ho iniziato ad aspettare. Non è stato facile, così come non è facile gestire le situazioni che non conosci e che ti si presentano all'improvviso, quindi devi cercare di gestirle in qualche modo. E io ho cercato il mio modo. Un modo per assecondare e non per subire il tempo che passava e che mi separava quindi da martedì notte a settimana prossima. 5 giorni, anzi forse 6, perché non è detto che lunedì ci sentiremo. Un mucchio di giorni, mi pare un'enormità. Ho pensato però che non volevo più fare finta di niente. Questa cosa era successa, stava succedendo, quindi era inutile evitarla o non vederla, perché non potevo nascondermela. Quindi ho cercato di fare il contrario, cioè ho deciso di cercare un modo per mettermela bene in evidenza, un modo per potercela avere davanti in tutta la sua forma, in tutte le sue dimensioni. E il modo più semplice che mi è venuto in mente, ancora una volta, è stato il diario. Cioè appuntarmi ogni pensiero che mi viene in mente, ogni volta che mi viene in mente, proprio in quel momento preciso. Non aspettare la sera o quando sono davanti a una scrivania, su un computer, no, appena nasce dalla testa. Chiarirmi con l'immagine e scriverla. Quindi mercoledì mattina sono uscito, ho comprato un piccolo taccuino, una penna, un rasoio e ho iniziato. Mercoledì 24 novembre, ore 11:40. Questa mattina mi sono rasato la barba. Non lo facevo da 3 anni. Ho usato un rasoio a 5 lame. Prima l'ho accorciata, visto che sembrava un naufrago. Poi ho preso il rasoio pentalama e mi sono rivisto la pelle del viso. Non ho sentito male e non mi sono nemmeno tagliato. La pelle è riapparsa in superficie grigiastra e sottile. Mi sono scattato una foto subito prima e subito dopo il taglio. Si dice che bastino pochi minuti a disfare qualcosa per cui ci sono voluti giorni di lavoro e di attesa. Ora mi ci vorranno giorni per farla tornare a prima dello scatto. Questo è il motivo per cui mi sono tagliato la barba, per vederla tornare. Voglio vedere il tempo che mi cresce sulla faccia. Voglio poterlo toccare e misurare ad ogni risveglio da qui a lunedì. Perché è il risveglio il momento peggiore. Quando una giornata intera si spalanca davanti e senti già il morso degli addominali. Temporeggi. Temporeggi tutto il giorno. In attesa di quel giorno che manco sai qual è. Il primo giorno è stato pieno. gli altri non lo so. Riempirli, farcirli di attività, persone, incontri, è l'unico modo per non temerli. Casa, radio e poi qualcosa da fare la sera. Mai una pausa, mai un'attesa, una sospensione, mai. La routine aiuta a non perdersi. La routine è una strada piena di segnali che conosci. È rassicurante, ti porta a casa tutti i giorni, nello stesso modo. Senza cercare le vie, senza contare le uscite, i giorni. Cerco di non contarli i giorni, ma di dividerli, sezionarli in frammenti che riducano le cifre da contare. Ecco perché mi sono tagliato la barba. Perché il vuoto fa meno paura se lo vedi riempirsi nella tua faccia. Che si fa pungente prima, e poi sempre più folta e morbida. Sempre mercoledì 24 novembre, ore 18:15. Ho ricevuto un messaggio, dice che ha voglia di vedermi, ma preferisco non pensare, preferisco non avere notizie fresche, che mi illudano di una vicinanza che non c'è. Sapere che si trova in viaggio, che sta per andare al mare, che dorme in un ostello o in un albergo. Immaginarla con lo zaino in spalla nelle vie di una città, tutto peggiora il mio malessere. Giovedì 25 novembre, ore 9 del mattino. La barba cresce, non è ancora ispida, ma già si fa sentire sulla pelle. Il colore è nero e già mi sento un po' meglio. Sarà perché vedo il tempo, oppure perché è una protezione, non lo so, ma mi sento meno nudo. Forse il tempo inizia a scorrere. Forse inizia a vivere senza l'incubo dei minuti che si susseguono. Forse domani è venerdì e vedo la fine della settimana, forse devo cambiare la prospettiva, non lo so, anzi è sicuramente così. Allora è che io non sono qui che aspetto notizie da lei. Io sono qui e vivo la mia vita. Lei sta vivendo la sua. Il pallino delle comunicazioni ce l'ha in mano lei. Ok, ma io non sto aspettando, sto vivendo la mia vita. È l'unico modo per non appesantire l'attesa e il mio stato d'animo con lei. Sempre giovedì 25 novembre, ore 23:54. La giornata sta finendo. Tutte le cose che giungono al termine mi danno tranquillità. Le misuro, le osservo. Non ci sto dentro. Stare dentro è quello che mi fa paura. Stare dentro invece che fuori. Non poterne essere osservatore, non poter governarle. Essere agito da qualcosa più forte di me. Non ho notizie da 48 ore ormai, non un sms, non una mail, non una telefonata. Secondo me, se supero il quarto giorno senza notizie, mi passa. Se arrivo a lunedì, non avrò più bisogno di conferme telefoniche. Prima ho chiamato il 187 per sentire se il suo numero è attivo oppure no. Ho scoperto che non è una carta prepagata, è un numero business. Venerdì mattina, ore 8:35. Mittente, Natalie, testo, chissà dove sei e cosa stai facendo. Ecco, ora mi sento un po' più leggero. Forse ho schiacciato pausa. Forse sto facendo finta di niente. Venerdì, ore 11:43. Mi chiama Simona, le racconto tutto, di lei, di come sto, di Procida, della notte al pronto soccorso e dopo. Le racconto del suo fidanzato e che lei è via con lui. Mi dice una cosa sola. Matteo, mi sembra che tu abbia tutti gli elementi per giudicare. Accuso il colpo e mi cambia l'umore. Ecco cos'è. Vivo questa storia come una minaccia. Una minaccia alla mia serenità. A volte vorrei che mi passasse. Vorrei poter tornare ad essere indipendente, a non aspettare chiamate, a non pensare che forse lei dovrebbe stare con non so chi, ma non con me, che forse si innamorerà di qualcun altro. Tornare a non sapere come starò, se lei fa o non fa. Il resto del diario lo sto ancora scrivendo. Il resto del diario è che sono le 16:24 minuti e il resto del diario però non è solo il mio, è quello che arriva al 349-238-6666. Ciao Matteo, sto aspettando che la mia fidanzata arrivi il ciclo e non so come sto realmente, se bene o male, ma aspetto, Giancarlo. Giacobbe aspettò Rachele per 7 anni e gli parsero solo pochi giorni, tanto era l'amore per lei, dal libro della Genesi. Io aspetto che mio figlio passi questo brutto periodo e ritrovi se stesso e viva la sua vita con serenità. Aspettavo il 30 per firmare un contratto di lavoro, me l'hanno fatto firmare oggi, Lorenzo. Io aspetto il giorno del contatto, Angelo di Anzio, non so di quale contatto parli, però lo aspetto anch'io con te, Angelo. Aspetto il quarto figlio e aspetto che il business riprenda. Aspetto che finisca la tua puntata per poter ascoltare Barisoni. Noi invece stiamo aspettando la cosa più bella che si possa attendere. Aspettiamo di fare la visita per sapere il sesso del nostro secondo figlio. Roberto e Francesca invece aspettano una buona notizia su qualsiasi fronte, perché sono stufi di ricevere solo cattive notizie. Mia figlia Vittoria aspetta con molta ansia domani per compiere 4 anni e giocare con i suoi amichetti alla sua festa, Chiara. Anche la nostra Vittoria aspetta di ritrovare un po' di sorriso, perché oggi non va tanto bene. Sto aspettando che lui mi chiami. 2 giorni fa mi ha detto ti chiamo domani e poi è sparito. Ansia a 1000. Giorgio di Bergamo. Io Matteo sto aspettando che la mia ragazza torni dall'Erasmus. Attesa snervante. Effettivamente anch'io se avessi la ragazza all'Erasmus sarei in attesa snervante. Aspetto con ansia di poter andare in Svizzera a lavorare e forse a viverci. Ciao Mauro. Gli altri ve li leggo dopo, ma siccome sono tanti e sono tutti dei pezzi di diario, questi sms li copio e li pubblico tutti su una nota su Facebook, perché non credo di riuscire a leggerli tutti, invece sarebbe il caso di farlo. Volevo leggervi anche un piccolo pezzo di una cosa che sto leggendo, giusto per aiutarmi in questo periodo, che è un pezzo dei frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, che è una specie di dizionario sull'amore, una roba che voi potete aprire a pagina 150 quando avete 20 anni e poi a pagina 300 quando avete 50 e trovate comunque sempre qualcosa di interessante. C'è un capitolo che è proprio dedicato all'attesa. E dice così, inizia così, il punto 1. Sto aspettando un arrivo, un ritorno, un segnale promesso. Può essere futile o infinitamente patetico. In Erwartung, che significa attesa, una donna aspetta, nella foresta, di notte, il suo amante. Io sto aspettando solamente una telefonata, ma è la stessa angoscia. Tutto è solenne, non ho il senso delle proporzioni. Ora aspettiamo un po', sentiamo la borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Io sto qui. Nella foto invece siamo in un laboratorio, credo, o in un magazzino, in un garage, no, un garage no, più un magazzino direi, perché si vedono sulla destra degli scaffali in metallo carichi di oggetti artigianali. Non saprei però dire che cosa sono. Sulla sinistra invece abbiamo il vero protagonista della foto, che è un uomo, un signore con la barba e i capelli brizzolati, che ha su una giacca da lavoro, credo, a scacchi, un paio di jeans un po' sporchi, quindi evidentemente lavora in questo magazzino. Ma la cosa divertente è che si trova a cavallo di una moto, che è una moto da strada, ferma ovviamente con il cavalletto, ma è tutto sbandato a sinistra, manco fosse Valentino Rossi, con il ginocchio fuori, come se fosse in piega durante una curva. Mi chiamo Sandro, ho 46 anni, sono nel mio laboratorio a fare brum brum sulla mia moto ferma rigorosamente in cavalletto, perché si può essere giovani una volta sola, ma si può essere immaturi per sempre. Io sono qui. Allora, io ringrazio innanzitutto Sandro, andate a vederlo perché è magnifico, proprio è su questa moto e guarda serissimo nell'obiettivo, proprio come dire ok, scatta adesso. Tra l'altro c'è un particolare che ho notato solo in questo momento, ed è che la ruota anteriore della moto è a 2 mm da un tombino che sembra che stia per cedere, per cui se sbaglia a muoverlo il nostro Sandro è per terra. 349-238-6666-800-24-0024, si parla di attese, di grandi attese, però mi scrive un ascoltatore, Lorenzo mi scrive, senti, tu sei un caso disperato, vai in un negozio di dischi ben fornito, comprati Irrlicht di Klaus Schulze, ascoltalo e ti passa tutto. Io vorrei capire che cos'è. Tiziano mi dice che è una roba techno? No, è una cosa elettronica sperimentale, e quindi Lorenzo ti ringrazio. Ho appena finito la mia ultima giornata di lavoro, ora sto aspettando di sapere se mi darò del pirla per tutta la vita oppure se ho fatto la scelta giusta, Giorgio. Aspetto il veterinario per operare il mio cane Iago, Max, sono in negozio, aspetto ancora il primo cliente della giornata, le 16:35, hai voglia? Sto aspettando il mio primo bambino, per il primo bambino per me, per il mio compagno il terzo. C'è una discrepanza. aspetto di trasferirmi in Spagna per sempre, aspettiamo la neve, insomma, continuano ad arrivare, però ci sono un sacco di telefonate alle quali chiedo immediatamente di andare abbastanza veloce, per cui vi chiedo che cosa state aspettando e da quando, e partiamo subito con quella Francesca, giusto? Con Francesca. Pronto, Francesca? Sì, ciao Matteo. Ciao Francesca, dimmi dove sei e cosa stai aspettando? Allora, io sto aspettando di entrare in una grotta di sale per fare una specie di terapia, perché io mi sento sempre stanca e ho problemi di tiroide. Allora, c'è un sale vecchio, non so quanti milioni di anni, pieno di iodio, e praticamente dovrebbe passare la mia stanchezza cronica. Ma e dov'è questa grotta di sale? È in provincia di Vicenza. E da quanto stai aspettando? Una mezz'oretta. E quando entri, quindi, a breve? Sì, infatti sono qua che mi devo praticamente spogliare per entrare. Ti lasciamo andare. Ti lasciamo andare, allora. Ma scusami, ma c'è la fila per entrare in questa grotta? C'è gente, ma è a pagamento. Va bene, vai Francesca, vai pure. Grazie mille e buona seduta, credo che si dica, nella grotta di sale. Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, stammi bene. Anche tu, soprattutto. Andiamo a Bari da Nicola. Pronto, Nicola? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a te. Tu che cosa stai aspettando? Sto aspettando giudizio dalla magistratura. Cosa? Ne hai combinata una delle tue, Nicola? No, assolutamente. Quando sei innocente, il giudizio lo attendi con molta più ansia e molta più pena. Quindi aspetto il giudizio per risolvere quelle che sono le mie pene. Dimmi, si può dire che cosa hai fatto, che cosa stai aspettando? No, cosa ho fatto? Io non ho fatto nulla. Niente. Il capo di imputazione è usura. Ah, ok, cioè hai prestato... Hai prestato no, io non ho prestato nulla, ho collaborato, abbiamo fatto gli imprenditori insieme a un mio pseudo socio per circa 10 anni e dopo 10 anni questo socio dice che gli ho fatto l'usura per 10 anni. Ho capito. Da quant'è che stai aspettando? Tra 4 giorni e 1 anno. Ah, sei una spada di Damocle proprio sulla testa praticamente. No, la cosa bella è che il reato prevede il sequestro patrimoniale in toto. Ustia. Quindi da 4 anni, secondo la magistratura, così come prevede il codice, uno campa d'aria o si mette a fare il delinquente. Senti, io campo d'aria. Tra quanto arriva questa sentenza? Le previsioni sono altri 3-4 mesi, perché ho chiesto il rito abbreviato e nulla, aspetto che vengano fissate le date. Nicola, in bocca al lupo ovviamente. Grazie. Ciao, grazie a te. Ancora Roland Barthes. L'attesa è un incantesimo. Io ho avuto l'ordine di non muovermi. L'attesa di una telefonata si va così intessendo di una rete di piccoli divieti, all'infinito, fino alla vergogna. Proibisco a me stesso di uscire dalla stanza, di andare al gabinetto, addirittura di telefonare per non tenere occupato l'apparecchio. Per la stessa ragione, io soffro se qualcuno mi telefona. Tutti questi diversivi sono dei momenti perduti per l'attesa, delle impurità d'angoscia, poiché nella sua purezza l'angoscia dell'attesa esige che io me ne stia seduto in una poltrona con il telefono a portata di mano senza fare niente. 800240024 349238 6666. Andiamo direttamente da Paolo, che ci ha scritto un SMS che riguarda dei pappagalli. Pronto, Paolo? Ciao Matteo. Buongiorno. Senti, tu cos'è che stai aspettando? Allora, io tra le altre cose ho una passione bestiale per tutti gli animali in genere, però in particolare per i pappagalli. Sì. Per cui se tu vieni a casa mia e vedi una stanza praticamente piena di gabbie e gabbiette dove ci sono separati per coppie tutta la mia passione. Senti, insomma, ma quanto dura la schiusa delle uova? Beh, dipende dalla razza, chiaramente. Adesso sto aspettando gli inseparabili, per cui sono 22-23 giorni. E quanto manca? Sono scaduti da 3-4 giorni, per cui dovremmo esserci. Ok, insomma. In bocca al lupo. È abbastanza normale. Grazie mille. Comunque ti ho mandato una foto anche, sono quello con i due ara brasiliani sulle spalle. Ah, certo, me la ricordo bene. Grazie mille Paolo, buona giornata. Ciao, stai bene. Ciao. Andiamo da Giuliana, perché Giuliana sta aspettando un leasing per una barca a vela. Sì, ciao Matteo. Ciao Giuliana. Ciao a tutti. Che cosa devi farci con questa barca a vela? Viverti. Forse anche fare più e più volte il giro del mondo, come dice mio marito, lo skipper. Ah, lui, ok, perché lui è lo skipper e tu sei la hostess. Io sono il mozzo di bordo, lui mi chiama lupetto di mare, naturalmente, non so far niente in barca, sto imparando, lui invece ha la sua bella patente senza limiti, ha questo mare dentro. Quanti anni avete, Giuliana, scusami? È 56. Ah, vabbè, ma siete giovani. Io che lui, sì. E volete fare il giro del mondo quando andate in pensione? Allora, vogliamo mollare la casa, sì, non vendendola, perché ci vuole sempre un attimo di saggezza e tenerci questo pezzo che abbiamo, e vivere in barca tutti i prossimi anni che lui lassù deciderà di darci. Ma Giuliana, scusami, ma tu però la frequenti già la barca a vela, oppure non c'è? Sì, sì, ah, sì, okay. Ma no, non è la nostra. Noi abbiamo fatto vari viaggetti con noleggiandola, le barche di amici, ah, okay, sì, anche con il charter, eccetera, certo, eccetera. E adesso avete preso questa decisione. Cioè, sono d'accordissimo. Dimmi quanto costa una barca a vela per cui devi fare un leasing? Allora, quella che noi prendiamo è l'occasione della nostra vita, se ce la facciamo ad avere questo leasing, perché ti spiego brevemente: le barche a vela nuove hanno tutte le possibilità di avere un leasing, ma costano cifre oltre 200 okay, euro. E invece questa? Questa è una barca che ha già 7 anni, però è ancora possibile accendere un leasing su questa barca perché appartiene a una società. Sì, dimmi quanto costa, Giuliana, unico. Dimmi quanto 100, costa. 130.000 euro. E quanto è lunga? Una follia. Sono 12 metri di barca, e per te e tuo marito, sì, per tutto il resto della vita. Giuliana, davvero, sì, in bocca al lupo e grazie mille. Grazie. Ciao, a voi. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, grazie mille. Un altro pezzo che riguarda l'attesa. L'essere che io aspetto non è reale. Io lo creo e lo ricreo continuamente, a cominciare dalla mia capacità di amare, a cominciare dal bisogno che ho di lui. L'attesa è un delirio. Ancora al telefono, ad ogni squillo sollevo precipitosamente la cornetta. Immagino che a chiamarmi sia l'essere amato. Al caffè, invece, ogni persona che entra, anche se appena vagamente rassomigliante, viene in tal modo, almeno in un primo momento, riconosciuta. 800240024, andiamo a Roma da Antonella. Pronto, Antonella? Sì, salve, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Senti, anche tu stai aspettando ed è un'attesa direi abbastanza sì, dolce, anche se non sei in dolce attesa, però... No, ho mandato il manoscritto a una casa editrice, il mio primo libro che ho scritto. Senti, come si intitola il libro? Diario di un amore impossibile. E a quale casa editrice l'hai mandato? Si può sapere? Gruppo Albatros. Me l'hai mandato solo ad una? Per ora sì, non so se devo mandare ad altri. Ma tu manda a tutti, manda proprio a pioggia, Antonella. Da quanto stai aspettando? Ma diciamo l'ho mandato da 15 giorni. Okay. Mi hanno detto tra 2 settimane e massimo 3 mesi, posso dire qualcosa. Antonella, in bocca al lupo, grazie mille. Crepi. Ciao, grazie. Grazie. Sentiamo Roberto da Vicenza. Pronto, Roberto? Pronto, ciao. Ciao, buongiorno. Senti, leggo adesso il tuo SMS... Sei in attesa di decirti ad entrare in convento? Sì, esatto, sì. Dopo un percorso di alcuni anni, adesso sono ancora lì sulla soglia e devo, come dire, fare il passo per superare la soglia. Quanti anni hai? Ho 35 anni. E cosa facevi prima? Ma ho fatto tanti lavori, perché sono sempre stata una persona molto irrequieta, per cui la mia ricerca... In che ordine di... Ma sono molto attratto dall'ordine di San Francesco, per cui okay, okay, francescani. Roberto, in bocca al lupo davvero. Crepi. Ciao, alla prossima. Andiamo Crepi, all'ultima Crepi, telefonata, Andrea da Reggio Emilia. Pronto, Andrea? Sì, sono qua, sono. Io sto aspettando che la mia amorosa faccia servizio militare. Perché la tua amorosa ha fatto il militare e tu no? No, io l'ho fatto, ma l'ho fatto, io sono un po' più vecchio di lei. Io l'ho fatto quando era ora. Lei adesso ha scelto come professione di fare il militare... Adesso sta facendo quello più uno, sto aspettando che finisca perché, ragazzi, la mia vita non è più quella di una volta. Lo immagino. Andrea, senti, in bocca al lupo a te soprattutto e alla tua fidanzata che finisce il militare. Va bene, vi ringrazio. Buona Ciao, serata. Grazie mille. Io e altre 115 persone aspettiamo che lunedì la nostra azienda comunichi i nomi delle 20 persone messe in cassa integrazione. Francesca da Milano. Grazie a lei, grazie a Paulino Corleoni, a Vittorio Mussini e a Tiziano Bonini. Ci sentiamo lunedì, domani io non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?